merda rap, sono il nuovo Schivano. Sulla scena siamo troppi, non sai quanti siamo. Darpolo gang, fanculo, non sento. Sto chiamando mio fratello, arriva il forse. Troppa oggi, ti si abbassa la pressione. Se non fumo oggi è come se non esce il sole. Sono collegato al giro, prendo pure il 4G. I soldi tornano indietro, beh, beh, beh, free. Piccolo, no, non fare il free willy. Non vuoi ritrovarti dentro al mio village. La dark si prende tutto entro il 2015. Se mi metto la bandana, in Santana. Sto mettendo tanta salsa dentro all'insalata. Un flow che mesci da vino, dannata. Siamo pieni di kush, la nascondo nei cuscini. I soldi girano in famiglia tra fratelli e cugini. Per strada siamo il PSG di PG Sheikhi. Bang, bang.